Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan giunta oggi alla puntata numero 518. È la prima puntata del 2020, nostro ottavo anno di attività, visto che Restiamo Animali ha cominciato ad andare in onda nel marzo 2012. Quello che abbiamo fatto è un bel percorso, sufficientemente lungo, da permetterci di apprezzare alcuni cambiamenti avvenuti attorno alle questioni che ci appassionano: la condizione degli animali non umani, la possibilità per la specie umana di vivere sul pianeta Terra considerandosi parte del vivente e non specie dominatrice e predatrice, e ancora la preoccupazione per il futuro stesso del pianeta Terra, o almeno per il futuro delle forme di vita attuali, in buona parte avviate verso la sesta estinzione di massa. Ebbene, qualcosa è cambiato in questi 8 anni, nella direzione di una maggiore attenzione attorno ai temi che ci stanno a cuore. Nel 2020, una trasmissione come la nostra, con il suo sguardo laterale sul mondo, è meno stravagante di quanto non fosse appena 8 anni fa. E anzi, possiamo dire che l'attenzione alla prospettiva degli animali non umani consente una lettura più efficace, più veritiera di certi fenomeni in atto, a cominciare, ovviamente, dal riscaldamento globale con i suoi devastanti effetti. In questa puntata parleremo ancora di orche, poi di lupi, di orsi, e sveleremo chi è il personaggio dell'anno 2019 per la redazione di Restiamo Animali. Cominciamo però ritornando in Australia, dove gli effetti del collasso climatico sono in queste settimane drammatici e lampanti. Enormi incendi stanno devastando porzioni significative del paese, alzando in cielo colonne di fumo visibili da enormi distanze. In questi roghi hanno perso la vita migliaia di animali selvatici. I koala, in particolare, hanno subito un'autentica decimazione. Questo singolare animale, uno dei simboli dell'Australia, è da tempo sotto pressione. La popolazione complessiva si è ridotta già negli anni scorsi a circa 28.000 esemplari, a causa della progressiva cancellazione dei suoi habitat, che hanno provocato una riduzione del numero di koala di circa il 40% nell'ultimo ventennio. La responsabilità è delle bonifiche agricole e dei disboscamenti attuati dall'industria del legname. Gli incendi di questo periodo poi hanno causato, secondo alcune stime, la morte addirittura di un terzo dell'intera popolazione di questa curiosissima specie animale. Qualche settimana fa il video di una donna che portava in salvo da un bosco in fiamme un koala fece il giro del mondo, commuovendo tutti, anche se l'animale purtroppo non si salvò a causa di ustioni e intossicazioni troppo gravi. C'è un video simbolo anche per questa nuova ondata di incendi. È stato ripreso da una donna, una ciclista, che stava percorrendo una strada asfaltata nella regione di Adelaide e a un certo punto ha visto un koala al centro della carreggiata. Sorpresa, pensando che fosse in difficoltà, si è fermata con l'intento di accompagnarlo al bordo della strada, ma ha subito capito che l'animale era assetato e disidratato, tanto che il koala si è attaccato letteralmente alla sua borraccia, svuotandolo. Sono immagini toccanti, ma sconvolgenti, e fanno capire quanto siamo distanti, noi animali cittadini, dalla reale percezione della catastrofe climatica, ben più evidente per chi vive in natura, vicino agli elementi, alle prese con gli eventi climatici estremi. E queste immagini dei koala ne sono una lampante, chiarissima dimostrazione. Si stima che i roghi in Australia abbiano causato la distruzione di circa 5 milioni di ettari di foreste. Sarebbe andato in fumo un terzo dell'habitat dei koala. E intanto a Madrid, come sappiamo, alla riunione COP25, i governi hanno deciso ancora una volta di non decidere niente. Without you is all my life amounts to. A final sleep, no words from my cutting mouth to your ear, or tired wicked pinches from my fingers to your bitter face that I can't heal. I know tomorrow you will be. Chiuso il 2019, abbiamo pensato di fare anche noi come le grandi riviste internazionali, che scelgono ogni anno il personaggio simbolo, quello che più di altri si è affermato all'attenzione di tutti. Si tratta in genere di persone capaci di incarnare movimenti positivi avvenuti all'interno della società o protagonisti di azioni emblematiche importanti, di grande valore. La persona dell'anno, secondo Time, per esempio, è stata Greta Thunberg. A dire il vero, potremmo anche noi, nel nostro piccolo, piccolissimo anzi, puntare sulla giovane attivista svedese, ideatrice e icona globale dei Fridays for Future, visto che il suo impegno ecologista è indistinguibile dalla sua sensibilità animalista. E come abbiamo visto parlando dei koala, la vicinanza al mondo animale, l'empatia con i selvatici, consente di avere chiavi di lettura più efficaci. E tuttavia, il personaggio dell'anno per noi non è Greta Thunberg, o non solo lei, bensì un orso del Trentino, chiamato burocraticamente M49, protagonista di una storia unica, con una clamorosa evasione da un recinto dove era stato rinchiuso dopo l'arresto e tuttora letteralmente alla macchia. Di questo orso, meritevole a nostro avviso di ammirazione, ci parla Zenone Sobilla, il nostro corrispondente per il Trentino e l'area alpina. Innanzitutto va inquadrato il clima sul tema orsi e lupi che viene alimentato in Trentino dal governo provinciale leghista. Ecco, per dare un'idea si potrebbe fare un parallelismo con l'utilizzo che Salvini, ministro, faceva della questione sbarchi di migranti. Dunque veniamo al nostro eroe, l'orso M49. Nella primavera scorsa era diventato il capro espiatorio, il simbolo della dannosità degli orsi tornati nei boschi del Trentino sud-occidentale grazie a un progetto europeo di 20 anni fa. A M49, maschio di 3 anni, venivano così attribuite le più svariate razzie di capi di allevamento, mucche, capre, pecore, asini, nelle zone delle valli giudicarie e rendena. Questo anche quando le circostanze reali potevano indicare cause e responsabilità assolutamente diverse dall'orso. Si costruiva insomma l'immagine di un orso particolarmente feroce e affamato, un'immagine del tutto falsa perché si trattava di un orso e basta. L'estate scorsa, in piena isteria istituzionale sull'orso, la giunta leghista naturalmente strumentalizzò una manifestazione a Trento degli allevatori, un corteo contro la presenza dei predatori nei boschi. Il presidente della provincia, Maurizio Fugatti, tornò a ripetere il suo mantra sul numero eccessivo di orsi, sono 50, 60, e di lupi, sui danni agli allevatori e fino anche sulla fantasiosa pericolosità per gli esseri umani. Così, in una contestata ordinanza, la provincia autonoma decise per la cattura di M49, definendolo dannoso e quindi non andava nemmeno esclusa l'ipotesi di abbatterlo. Catturarlo nei boschi in quota nella zona della Val Rendena fu complicato. Dopo qualche settimana di tentativi la trappola funzionò e M49 fu poi incredibilmente trasportato senza sedazione dalle valli giudicarie Val Rendena e dintorni a Trento, dentro la trappola a tunnel messa su un carrello attaccato alla vettura dei forestali per fare un viaggio di circa 80 km per arrivare nei pressi di Trento e essere rinchiuso in un recinto faunistico della provincia che si chiama Il Casteller. La versione ufficiale ci dice poi che M49 è fuggito poche ore dopo essere stato messo dentro il recinto, nella notte del 14 luglio 2019, scavalcando reti alte vari metri eppure elettrificate. Da allora, sempre secondo quanto ne sappiamo, M49 sarebbe tornato in libertà e dunque adesso sarebbe in letargo nell'area montuosa del Lago Rai. Siamo nel Trentino nord-orientale, una delle poche aree non troppo antropizzate. Nei mesi estivi e autunnali, poi, dopo queste rocambolesche vicende, M49 si sarebbe spostato dalla Val Sugana alla Val di Fiemme, nella zona della catena montuosa del Lago Rai, e qui sono state rarissime in questi mesi, eppure dubbie le predazioni a lui attribuite. Quindi se prima era un orso così affamato e attivo, dopo non lo era più. Poi, per quanto riguarda gli avvistamenti, ce ne sono stati un paio in questo periodo estivo e autunnale, più o meno credibili, di persone nei boschi che hanno visto questo orso. Così l'orso M49, che non è altro che un normale orso, ora è libero e si spera ci faccia riflettere su queste cose. Riflettere come simbolo di una rivincita su questa ottusità umana. Un simbolo, fra l'altro, cui in Trentino ora è intitolata anche una squadra di pallavolo. L'Ursus Felix Volley. A proposito di orsi e della difficile vita che conducono nel nostro paese, dall'Abruzzo arriva una bruttissima notizia. Una giovane femmina con un cucciolo è stata investita e uccisa da un automobilista a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila. L'investimento è solo l'ultimo di una serie. In genere questi fatti vengono considerati incidenti stradali e la valutazione che se ne dà è tutta nella logica dell'automobilista. Si sostiene cioè che l'orso, ma lo stesso avviene con lupi e cinghiali, per esempio, è un pericolo per chi viaggia in auto. In realtà è vero l'inverso e sono le automobili che attraversano i boschi il vero pericolo incombente, in quanto elemento del tutto estraneo all'ambiente, nonostante le strade asfaltate che consentono il passaggio. In Italia purtroppo il culto dell'automobile impedisce di considerare che in determinate zone, in montagna, nei parchi, è necessario dare priorità alla vita animale e quindi è indispensabile moderare la velocità. E il più in generale sarebbe dovuto prevedere interventi strutturali, cioè possibilità di attraversamento sicuro per gli animali, come avviene in molti paesi. Il vicepresidente del WWF Italia, Dante Caserta, all'indomani dell'uccisione dell'orsa, ha fatto appello a tutte le persone di buona volontà. In tutta l'area di presenza attuale e potenziale dell'orso, ha detto, quindi tutto l'Abruzzo montano e le zone limitrofe di Lazio e Molise, è fondamentale che i guidatori rispettino i limiti di velocità, in particolare nelle ore serali e notturne. Il futuro dell'orso bruno marsicano, dice Dante Caserta, è appeso a un filo e dipende anche da ciascuno di noi. Fatto sta che negli ultimi anni sono stati ben 6 gli orsi uccisi in incidenti stradali, 2 solo nel 2019. Dopo ogni investimento ci siamo addolorati, abbiamo parlato di grave perdita, abbiamo ipotizzato interventi, ma in concreto, chiede ancora Caserta, quanto è stato fatto? Quanti dissuasori stradali sono stati montati? Quanti autovelox? Quante campagne di informazione per gli automobilisti sono state messe in atto? Tutte domande purtroppo retoriche di cui conosciamo bene la risposta. Il WWF è impegnato nella campagna Orso 2x50 che ha l'obiettivo di raddoppiare la popolazione di orso marsicano entro il 2050. Ma è chiaro che un risultato del genere si potrà ottenere solo se ci saranno interventi seri sulla sicurezza. La sicurezza degli orsi, naturalmente. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Well, lines say this loving's best. Well, leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way sort of cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Ever when there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Abbiamo seguito nelle ultime settimane la vicenda, ma potremmo dire il calvario, del gruppo di orche avvistato nel mare Mediterraneo davanti alla città di Genova. Si tratta di cetacei provenienti dall'Islanda, capitati chissà come e soprattutto chissà perché, in specchi di mare del tutto inadatti per animali del genere. Le ultime notizie arrivano ora dallo stretto di Messina, quindi dall'altro capo dello stivale rispetto a Genova, dove sono state avvistate 3 delle 4 orche rimaste dopo la drammatica morte del cucciolo del gruppo, in Liguria. C'è quindi il dubbio che anche un'altra orca, quella mancante all'appello in Sicilia, sia morta, a meno che per qualche ragione non abbia lasciato il resto del drappello. La speranza generale, comunque, è che le orche riescano presto a raggiungere Gibilterra e a lasciare il Mediterraneo, per ritrovarsi in ambienti più congeniali, dove continuare con più tranquillità la propria vita. Intanto i ricercatori cercheranno di capire se lo stato disastroso dei mari e il riscaldamento globale abbiano provocato questo insolito viaggio delle orche. Dopo tante notizie negative ce n'è una positiva, anche se al fondo anche questa è una notizia triste. L'Istituto Superiore di Sanità ha liberato 9 macachi utilizzati per studi di immunologia, affidandoli al centro di recupero di Sempronianu, dove sono già ospitate 2 colonie liberate a loro volta dai laboratori delle università di Modena e di Padova. Il centro di Sempronianu collabora strettamente con la LAV, Lega Antivivisezione, la quale ha accolto con favore la notizia della liberazione dei macachi sottoposti a sperimentazione, ma al contempo ha chiesto al Ministro della Salute, Roberto Speranza, di revocare, si legge in un comunicato, l'autorizzazione dell'anacronistico e doloroso progetto in atto sui macachi di Torino, in uso all'Università di Parma. La revoca dell'autorizzazione, secondo la LAV, sarebbe in linea con i nuovi orientamenti della comunità scientifica e anche una risposta agli oltre 420.000 italiani che hanno firmato la petizione promossa dalla LAV per sospendere questa sperimentazione. Dal ministro, per ora, solo silenzio. Il prestigio di Charles Darwin nella cultura occidentale, non solo scientifica, è enorme e inattaccato. Nonostante la sua teoria dell'evoluzione abbia rivoluzionato credenze consolidate e visioni religiose forti di secoli di storia. E tuttavia è possibile che Darwin non sia stato il primo essere umano ad aver intuito il meccanismo evolutivo come cardine della vita sul pianeta Terra. Ben 1000 anni prima di lui, uno studioso di Bassora, oggi in Iraq, aveva svolto osservazioni simili alle sue, anche se Abu Othman Amr Bal al-Kanani al-Basri, meglio noto più semplicemente come al-Jaiz, non è entrato nei nostri libri di storia della scienza. Il giornalista scientifico Ehsan Masud ha dedicato un documentario e un articolo sul Guardian a questo studioso, nato nel 776 d.C., autore di oltre 200 volumi. In uno di questi, intitolato Il libro degli animali, al-Jaiz sostiene che gli animali sono fra loro in lotta per l'esistenza e per le risorse, per evitare di essere mangiati e per procreare. In un altro passaggio, al-Jaiz scrive che i fattori ambientali influenzano gli organismi nello sviluppo di nuove caratteristiche che garantiscono loro la sopravvivenza, trasformandoli così in nuove specie. Sembra che le osservazioni di al-Jaiz non fossero sconosciute ai tempi di Darwin. William Draper nel 1878 parlava in effetti di una teoria maomettana dell'evoluzione. Secondo la biologa Rana Dayani, il concetto di contraddizione apparente fra l'Islam come religione e la scienza è apparso solo all'inizio del XX secolo, per una serie di ragioni. Fra queste, dice la biologa, il colonialismo rampante, perché il darwinismo sociale era usato come scusa per colonizzazione, razzismo e imperialismo. Così, nella psicologia dei colonizzati esisteva un'associazione fra il darwinismo e l'oppressione. Secondo Dayani, Quindi è nata una sorta di contesa fra evoluzione e Islam, anche se nella cultura islamica questa contrapposizione non è mai esistita. Dovremo insomma rivedere alcune delle nostre certezze di storia della scienza. Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, questa settimana ha accettato la sfida di dedicare il suo spazio etico-gastronomico a una ricetta ispirata proprio al precursore di Darwin, Al Jaiz. Sentiamo che cosa è riuscito a inventarsi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. La difficoltà del piatto che vi propongo oggi non è la sua realizzazione, ma azzeccare la pronuncia di tutti i nomi. Già, perché la ricetta è dedicata al prolifico studioso dell'odierno Iraq, Al Jaiz, e la preparazione che vi propongo è quella dei kebbi, polpette di bulgur. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di bulgur, 100 g di ceci cotti, una cipolla bianca, 100 g di lenticchie verdi essiccate, del cumino, della curcuma in polvere, uno spicchio di aglio, della menta fresca o essiccata, un cucchiaio di pinoli, sale e pepe, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e dell'olio per friggere. I made it through the wilderness. Mettete in ammollo le lenticchie in acqua per almeno 30 minuti. Bagnate il bulgur con 100 ml di acqua e lasciatelo riposare per 15 minuti. Una volta pronto, frullatelo nel mixer assieme a metà della cipolla bianca, i ceci lessati e scolati, il cumino, la curcuma e il sale. Coprite l'impasto ottenuto con della pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per 25-30 minuti. Nel frattempo, tritate l'altra metà della cipolla, fatela scottare con poca acqua e quando questa sarà evaporata, fatela soffriggere con olio extravergine. Aggiungete lo spicchio di aglio tritato finemente, la menta, i pinoli e le lenticchie crude, tritate col mixer o con un frullatore ad immersione. Aggiustate di sale e lasciate cuocere a fuoco lento. Adesso recuperate l'impasto di bulgur e con le mani inumidite realizzate delle palline. Scavate delicatamente all'interno realizzando una sorta di cilindro che farcirete con un cucchiaio di impasto di lenticchie. Chiudete bene il tutto dando una forma ovale delle dimensioni di un seme di avocado. Fate friggere in immersione in olio caldo fino a quando saranno ben dorati. Fate asciugare su carta per frittura e servite. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Gonna give you all my love, boy. My fair is fading fast. Been saving it all for you, 'cause only love can last. You're so fine, and you're mine. Con la ricetta irachena di Gabriele Palloni si chiude la puntata di Restiamo Animali. Vi saluta l'intera redazione, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.